Ragazzi, secondo me da oggi in poi vedremo solo partite dove si marca a zona. Marcare a uomo non si potrà più. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. It is debatable that simply because you sit in a big country, you have direct access to competitions. I have very high regards of what Atalanta has done. But without a European history, with a great performance last year, they had immediate access to the international competition. Is that fair or not fair? Is that right or not right? If you miss, you know, then I think of Italy. Roma has contributed a lot in the past couple of years in maintaining the Italian ranking. They had a bad season, out, which means financial liabilities. But it is also protecting the investments, the costs. So we should never forget that we invest and we have the long-term consequences of our investments. Eccoci qua, non sono impazziti Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia con questa copertina. Adesso facciamo il bollettino dello sport e del calcio all'epoca del coronavirus, aggiornato alle 14.05 di venerdì 6 marzo. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Ho qui con me Marco Bellinazzo. Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti. Convocato dal piano di sopra, dal Sole 24 Ore, perché oggi si litiga a proposito dell'Atalanta. Ma adesso vi dico tutto, intanto il bollettino all'epoca del coronavirus. A Cagliari in questi minuti si sta giocando Italia-Corea del Sud di Coppa Davis in un clima definito, aperte virgolette, spettrale, chiuse virgolette dai pochi testimoni oculari. L'Italia avanti 1-0, poi ne parleremo. Poi sono state rinviate oggi a data da destinarsi la Tirreno-Adriatico, il Giro di Sicilia e soprattutto la Milano-Sanremo, che è la classicissima di primavera, un po' come se il tennis avesse cancellato Wimbledon. Per intenderci, Barcellona-Napoli, 18 marzo Champions League, si giocherà a porte aperte, lo ha detto il ministro della Sanità spagnolo pochi minuti fa. Poi Norimberga, che non vuole ospitare Germania-Italia amichevole del 31 marzo. Poi, fra 54 ore e 40 minuti circa, si gioca Juventus-Inter, la madre di tutte le partite, però dopo una settimana a discutere di porte aperte, chiuse, calendari, recuperi che non tornano, noi oggi possiamo litigare su altro, perché ieri Agnelli a Londra, a un incontro organizzato dal Financial Times, ha detto le parole che avete sentito prima, parlando dell'Atalanta, del suo cammino in questa Champions League, del diritto o meno di entrare. In realtà ha detto anche tante altre cose, perché l'intervento è molto più lungo e articolato rispetto a quello che abbiamo sentito. Oggi però sui giornali italiani la presa di posizione è stata abbastanza chiara. L'Atalanta merita di stare dentro la Champions perché se l'è guadagnato, sta facendo benissimo. No al calcio che prescinde dalla meritocrazia, ma è quello che aveva detto Agnelli. Adesso proviamo a scoprirlo. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms e whatsapp. Aperto il dibattito, voglio sapere da voi che cosa ne pensate, sia che tifiate l'Atalanta, la Juventus, insomma tutto quello che volete. Allora, Marco Bellinazzo, da dove partiamo? Beh, partiamo dal fatto che non è la prima volta che Andrea Agnelli, più che come presidente della Juventus, come presidente dell'ECA, cioè l'associazione dei club europei, pone l'accento su un problema, che è quello della crescita dei costi, della crescita degli investimenti che servono oggi per stare a un certo livello, e quindi pone il problema di come questi investimenti vadano salvaguardati nel tempo. Personalmente, forse perché avrò, come dire, una preparazione più economica che sportiva, ho guardato più questa parte del discorso di Agnelli più che il riferimento all'Atalanta. Il riferimento all'Atalanta è sbagliato per due motivi: due, perché appunto se lo è conquistato sul campo il diritto, ma anche perché l'Atalanta in questi anni di investimenti ne ha fatti e ne sta facendo. su Zingonia, sul centro sportivo, ha acquistato lo stadio di Bergamo, lo sta ristrutturando, parliamo di investimenti che superano i 50 milioni di euro. Quindi da questo punto di vista, come dire, l'esempio era sbagliato. Credo che però il tema posto in riferimento per esempio alla Roma sia importante, perché oggi per avere una squadra che possa stabilmente competere a certi livelli, cercare di entrare in Champions, c'è bisogno di avere un certo livello di giocatori e quindi un certo livello di costi e anche una continuità nel poter investire e spendere senza essere appesi a un palo, a una traversa o al risultato di una stagione. E quindi credo che sia questo poi il tema fondamentale che ha lanciato Agnelli. Poi sì, possiamo discutere insieme perché poi c'è un discorso più ampio, Pier. Poi è chiaro che il riferimento all'Atalanta è stato quello passato più immediatamente, poi c'è un discorso più ampio. Perché ad esempio Agnelli dice non ha senso forse, o comunque è discutibile, si può discutere in questo senso, che se tu arrivi quarto semplicemente perché fai parte di un paese potente, quindi uno dei primi quattro che hanno acquisito quell'opportunità attraverso il loro peso economico più che meritocratico, tu entri, poi magari c'è un club, l'Ajax, che ha fatto la semifinale, ha vinto il suo campionato considerato di seconda fascia, ad agosto gli va male un preliminare e sta fuori dalla Champions. Allora dove sta la meritocrazia? Pier? Ma il sistema perfetto non esiste. Lui fa un riferimento anche al contributo che la Roma ha dato negli anni precedenti al ranking. Diciamo che volendo declinare questa proposta si potrebbe anche declinare, immaginare, strutturarla sul fatto che tu chiaramente i risultati di un anno incidono sul tuo ranking di squadra e poi alla fine le prime 3-4 a seconda di che paese sei partecipano o non partecipano alla competizione l'anno successivo, non so se mi sono spiegato, no? Però questo toglierebbe il principio e la bellezza del fatto che se c'è uno spareggio per il quarto posto all'ultima giornata, chi vince quello spareggio va al Champions League, cioè è proprio il meccanismo. E chi perde sta fuori. Allora, io credo innanzitutto che da un punto di vista complessivo di comunicazione sia stato abbastanza un autogol, anche perché poi se una cosa la devi spiegare per far capire meglio vuol dire che non l'hai detta bene o comunque che ti sei prestato a un rischio da questo punto di vista. Sì, anche se ripeto il discorso era più lungo e ampio. No, ma lo so benissimo, lo sento tutto. Il discorso era più lungo e secondo me è un discorso complessivo di impostazione, di prospettiva, è la contrapposizione se vuoi fra un modello aperto che è quello del calcio europeo e un modelli più chiusi come ad esempio quello dello sport professionistico americano, perché poi di fondo se tu fai una Superlega fai quello, cioè fai un sistema a franchigie dove in Spagna ce ne sono quattro e sono sempre quelle, poi però è completamente un altro che è un po' l'Eurolega di basket, per intenderci. Scrive un amico che... guarda Giovanni, è giusta la Superlega, l'Atalanta non deve farne più parte, l'Atalanta è solo una meteora, qui andiamo oltre. Io credo che neanche Agnelli pensi sì, questa no, cosa no, io chi governa penso che il sistema è fatto così in Italia e in Europa. Ed è appunto o cambi tutto o decidi che in Italia tu scegli le 18 città più importanti con i bacini di utenza e ci stabilisci 18 franchigie e fai il campionato, oppure no, oppure invece ci teniamo il nostro sistema che è un sistema aperto, che è un sistema dove il Chievo, che fino a pochi anni fa nessuno sapeva chi fosse, per tanti anni gioca in Serie A, che è un sistema dove ci sono grandissime città ed è un peccato ed è un dolore che stanno in Serie B o sotto, che sono sotto eccetera, anche sotto. Dove però ti dico la verità, io sono d'accordo con chi dice che questa è la bellezza del nostro mondo, del nostro calcio, insomma, sì. Quello che sta facendo l'Atalanta, a parte che l'Atalanta nello specifico non è una meteora, sì, però ricordiamoci anche le resistenze quando fu rinnovata la Champions League, cioè fu portata dal format della Coppa dei Campioni alla Champions League, sembrava finisse il calcio è vivo e vegeto. Il problema ragazzi è che Andrea Agnelli e insieme a lui i presidenti dei grandi club non stanno guardando neanche al 2024 quando comunque il format della Champions sarà cambiato, stanno guardando al calcio nel 2030. Questo significa che stanno guardando a un sistema in cui sport e entertainment si uniranno definitivamente insieme o grazie per meglio dire al mondo digitale, al mondo social, e in cui la concorrenza tra le leghe passerà in secondo piano, ci sarà una concorrenza tra i grandi sport globali, il calcio avrà la NBA, forse la NFL, non credo il baseball, ma comunque ci saranno gli sport, grandi anche eventi, gli sports, l'entertainment, e il tema sarà conquistare i giovani, conquistare il tempo. E da questo punto di vista si pensa che appunto un modello come quello attuale del calcio sia deficitario rispetto a questa prospettiva di sviluppo. Cioè rischi di perdere, il tema è questo. Alla lunga rischi di perdere la sfida. Dove, per capirci, un bambino di Saragozza o di Leverkusen magari avrà come prima squadra la Juve o l'Inter. Perché, assolutamente. Perché sarà tutto talmente europeo che in qualche modo già sta avvenendo, no? Anche dal punto di vista proprio, sì, del Barcellona, Messi, Real Madrid, Manchester United hanno tifosi in tutto il mondo. Quindi, sì, poi in realtà è tutto da discutere, perché essendo in mezzo a una trattativa, perché di questo si tratta, tra l'altro ieri abbiamo scoperto che una trattativa che è ripartita anche dopo il muro contro muro di tanti mesi. Ad esempio c'è da discutere se cancellando il sistema per cui tu ne porti 4 automaticamente, magari favorendo chi l'anno prima è stato in semifinale di Champions League, l'Ajax di turno, che non fa parte di quel circolo, tu sei più o meno meritocratico rispetto a come sei adesso, pur facendo evolvere il sistema. Io non so cosa ne pensa Stefano Colantuono, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Stefano, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Non so come gli uomini di campo accolgono questo dibattito, questi dibattiti. Sull'innovazione, io lascerei tutto com'è, mi sembra più giusto, altrimenti queste squadre che non le grandi, diciamo, non le big, che per anni hanno partecipato a competizioni europee, così, che campionato fanno? Qual è l'obiettivo? Perché il bello è proprio questo qui, una società come l'Atalanta, che oggi ormai è una big, che parte come una provinciale, che oggi è una delle squadre più belle d'Europa ed è un modello tra le altre cose. Squadre italiane cercano di rifarsi, magari provano a rifarsi a quello che ha costruito l'Atalanta. Probabilmente è proprio il bello del nostro campionato è questo, altrimenti si perde di interesse, anche se loro dicono che è tutto il contrario. Poi invece secondo me no, io lascio tutto così. Prima che fosse chiuso, per Luigi cioè, parlasse del Chievo, no, giusto? Scusa, ma la favola del Chievo quando ci sarebbe stata allora una cosa del genere? Ma perché chiudere? Io lascerei tutto come sta, va benissimo così, chi è bravo, chi lavora meglio, chi ha più idee, chi va a pescare i giocatori migliori, chi riesce a dare continuità al campionato il sabato, la domenica o il venerdì, quando gioca va avanti e se perdi... Sì, posto che la favola del Chievo è nata e si è consumata in un periodo in cui la disparità, ad esempio, nella divisione dei diritti TV era ancora maggiore rispetto a quella di oggi. Sì, ma infatti... Quindi si fa che non necessariamente un sistema esclude l'altro. A ben vedere già c'è una disparità, cioè, a ben vedere è già un miracolo che l'Atalanta possa competere a quel livello lì, o che la stessa Lazio, cioè che oggi ci sia in terza la classifica la Lazio, che ha un fatturato... Benignazzo che sa tutti a memoria, credo di meno di un terzo di quello della Juve, giusto? Sì, anche meno, la Lazio, ecco. Diciamo, senza plusvalenze, credo non arrivi nemmeno a 100 milioni, comunque li poche, ecco, superati quindi poco. Un quinto di quello della Juve, sono praticamente lì a giocarsi lo scudetto, siamo all'Inter, già questo, io sono all'idea, o fai un sistema aperto o fai un sistema chiuso, infatti l'Eurolega di basket a me non piace moltissimo da questo punto di vista, nel senso che se tu fai un sistema chiuso tipo la NBA è una rivoluzione culturale mostruosa. Sì, vuol dire rinunciare al modello non italiano ma europeo, però sposare quello nordamericano. E allora poi fai il salary cap, quindi tetto salariale per tutte le squadre nello stesso modo, dei meccanismi per favorire l'equilibrio, e quello è un sistema. O se no fai il sistema, il bello del calcio europeo è che comunque se tu arrivi quarti in classifica in Italia vai in Champions League. Ed è giusto che tu ci vada. Il calcio europeo era bello anche quando da quarto tutto, però non ci andavi in Champions League. Ma certo, no, però voglio dirti, non puoi andare in campo. No, perché con il sistema che abbiamo oggi è ben poco meritocratico, se vogliamo. Io credo che. Appunto. Io credo che si possa in realtà trovare una via di mezzo, perché quello che è successo negli ultimi 15 anni, e mi riferisco sempre come dire, a un combinato disposto, lasciatemi usare questa bruttissima espressione, ma che dà l'idea del fatto che sono due le cause che hanno creato questa situazione. Da un lato il fair play finanziario così come è stato impostato e tenuto in piedi finora, e dall'altro il sistema Champions iper come dire, remunerativo per chi ha sempre partecipato. E queste due cause hanno determinato l'effetto oggi di creare un oligopolio in capo al hanno sistema, cristallizzato il sistema calcistico europeo. Se tu hai, diciamo, 6-7 club che vanno dai 500 milioni in su e che tendenzialmente vincono, salvo sorprese eccezionali, allora il tema è che questo sistema non va bene, occorrono 20-30 squadre che possano avere più soldi. Allora il tema è come crei un sistema in cui gli investimenti vengano garantiti. Prendiamo la Roma che ha citato ieri Andrea Agnelli. La Roma quest'anno non va in Champions, a fine stagione si troverà con un rosso di oltre 100 milioni. e quindi col rischio di trovarsi sotto la catena del fair play finanziario, perché ha sbagliato una stagione. Era questo un po' il tema, uno dei temi sollevati. Beh, forse l'attualizzazione potrebbe essere fatta su queste regole, cioè se tu sei per 2 o 3 anni dentro, poi esci, è chiaro che non puoi immediatamente ridurre il tuo peso economico. Ma puoi stabilire delle forme di mutualità. Per cui, per esempio, o anche di controllo e di normativa, ma adesso non dobbiamo deciderlo noi qui in quest'ora. Anche la mutualità, cioè anche l'idea che chi non partecipa, per dirti, alla Champions League sulla scorta di quello che avviene tra Serie A e Serie B con i diritti televisivi, l'anno successivo abbia un paracadute, questo può essere un sistema. Però la cosa fondamentale, lo dico da persona che ama questo sport, è che non è che se ti chiami X hai un posto garantito indipendentemente dai risultati, e se ti chiami Y, cioè la discriminazione da questo punto di vista, secondo me è un meccanismo terribile. Quindi, ma probabilmente Agnelli non voleva neanche dire questo, stava aprendo un dibattito, però ripeto, qualora fosse questo, a me non piace. Cioè, a me l'idea che se ti chiami X hai il posto garantito nella Champions perché per meriti sportivi pregressi, non mi piace. Credo, da quello che ho capito, che il dibattito è aperto, ma del resto lo stiamo raccontando da mesi e lo racconteremo ancora, perché credo che nell'arco di un annetto si dovrà arrivare a questa benedetta definizione di che cosa succede ai format dal 2024. 800 24 00 24, 349 238 6666. State scrivendo in tantissimi, devo dire la stragrande maggioranza contro Agnelli, per come interpretato, diciamo, anche oggi sui giornali, noi stiamo cercando di fare un ragionamento un po' più ampio, un po' più lungo, così come più ampio, lungo e complesso è stato il suo intervento. Poi parleremo con Emilio ed Enrico, che ci stanno chiamando Napoli, provincia di Cuneo. Intanto, Stefano, ci siamo trascinati in eredità dopo una settimana di emergenza coronavirus che chiaramente non è finita. Poi faremo il bollettino. Tanti temi legati al calcio che riparte faticosamente domenica a porte chiuse. Ad esempio, prima di parlare di Juventus-Inter, la crisi del Milan, Gazzidis contro Maldini-Boban, tu che idea ti sei fatto? Che idea mi sono fatto? Non è facile dare un giudizio. Boban ha scelto questa strada, probabilmente le idee non collimavano, ma secondo me le idee non collimavano dall'inizio. Non è che il tutto sia enormemente esploso adesso, già c'era qualcosa che forse non andava prima. Il Milan, secondo me, è indecifrabile, con una proprietà che non esiste, con dei dirigenti che sono stati messi lì a gestire la situazione non facile, perché poi il Milan è una situazione di anno zero, di ripartenza, cercando di stare il più vicino possibile a quelle squadre che negli ultimi anni hanno fatto campionati importanti. Non credo sia facile fare questo, ci vuole un minimo di programmazione, ci vuole una società presente, ci vogliono che la proprietà sia lì a decidere insieme a chi poi ha destinato a gestire le risorse del club. Così diventa tutto molto difficile. Ora non so se Maldini andrà via o Boban già lo ha fatto, vedremo cosa succederà con Massara, ma chiunque arrivi comunque si riparte da zero con le stesse problematiche, le stesse difficoltà che c'erano. Ma l'idea dell'allenatore manager vi piace, ti piace? Ma in Italia non è mai successo, ovviamente. Io credo anche che noi in Italia non l'abbiamo mai fatto, non c'è mai stato. Poi è chiaro che l'allenatore comunque sul mercato deve incidere, deve dire la sua, deve scegliere insieme alla proprietà i calciatori, però probabilmente potrebbe essere una cosa bella, non lo so, però in Italia non so se siamo pronti a fare questo. Pier? A me piace, nel senso che, anche se poi non coincide esattamente all'inglese con la stessa persona, mi piace che ci sia una sintonia pressoché totale fra l'allenatore e chi fa la squadra. Quindi poi quello lì è l'esempio, diciamo, più eclatante, no? Cioè la stessa persona fa le due cose. Può essere anche basta che ci sia unità di intenti fra l'allenatore e chi fa il mercato. Ma è quasi banale dirlo, cioè penso che alla Lazio, per esempio, ci sia compatibilmente sì, no, il tema, budget. Il tema, Pier, poi alla fine a un certo punto faccio la plusvalenza o faccio l'investimento, perché a questo poi fondamentalmente si riduce questo doppio ruolo. E bisogna trovare persone. Quindi l'allenatore punta i piedi perché vuole l'investimento, o è aziendalista perché capisce che la priorità è la plusvalenza? Provo ad andare ancora più al nodo. Secondo me, se tu hai un obiettivo di budget preciso, cioè se tu sai che hai 50 milioni di euro per fare il mercato più le cessioni in un anno, cioè è importante, secondo me, che ci sia un allineamento assoluto con l'allenatore. Questo sì. Quando non c'è si vede, perché è difficile, ma questo vale in tutti gli ambiti della vita. vale per un conduttore, per un autore televisivo. Cioè, quanto ho di budget per fare la trasmissione, per gli ospiti, per i collegamenti, per le esterne? È chiaro che ci deve essere una sintonia. Se questa sintonia non c'è, è un problema. Quando c'è sintonia si vede, le cose funzionano. Quindi vale per mille settori, secondo me. Della... Poi è ovvio che ci sono dei momenti in cui tu c'hai... Che faccio? Monetizzo o non monetizzo? Mi danno 120 milioni per Milinkovic-Savic. Lo vendo? Che faccio? Lo vendo? Vendo o no? Al di là del progetto sportivo. Stefano Colantuoni, invece, su, portandoci verso Juventus-Inter, Sarri ha avuto 11 giorni per lavorare sulla crisi della Juve, che noi ce lo siamo dimenticati, crisi conclamata dopo la sconfitta di Coppa contro il Lione. Secondo te basta, no? Io credo che loro dovrebbero già sapere quello che c'è da fare. Ora, al di là del momento, perché se con 11 giorni si pensa di rimettere a posto qualcosa di sbagliato, secondo me c'è qualcosa che non va. Diciamo che la Juventus deve migliorare in tantissime cose, però deve ripartire forse da quello che è stato fatto prima di questi 11 giorni, perché il lavoro importante è quello che è stato fatto prima. Ma io penso che si ritroverà la Juve. È vero che l'ultima partita non è stata una partita all'altezza della Juventus, e che quest'anno sicuramente la Juventus non è stata all'altezza di quello che ci si poteva aspettare, visto e considerato che Sarri ha sempre delle idee ben precise e le squadre di Sarri sono sempre molto identificabili, perlomeno con il Napoli è stato così. Però insomma sta ancora lassù, ora non è prima, però ci può tornare, è in corsa per tutti gli obiettivi. Quindi è presto per fare il funerale della stagione, secondo me, e di conseguenza sì, il funerale di Sarri. Io credo che si è creato tutto questo pandemonio perché le aspettative con l'avvento di Sarri erano state probabilmente ingigantite più del dovuto, ed ora invece che sta lottando con le altre sembra chissà che cosa c'è di sia di grave. Nulla, secondo me, è che le altre hanno piaciuto. Vabbè, sicuramente Inter e Lazio. Posso, grazie, posso sì, vai, poi lo salutiamo. Vai. Tu hai un'idea dell'impatto che avranno le porte chiuse? Cioè, non so se ti vuoi addirittura sbilanciare su quali possono essere le squadre favorite e quelle danneggiate, so. È una bella domanda questa, perché io ho giocato a porte chiuse, credo più di qualche volta, è una situazione stranissima, veramente. È una situazione molto strana, però credo che poi alla fine il calciatore ne può risentire, ma fino a un certo punto, secondo me, perché poi quando giochi sei preso da quello che devi fare, da quello che hai trovato, da tante altre situazioni. Credo che l'impatto delle porte chiuse possa essere magari per la squadra di casa che ti dà una spinta, ti può dare un aiuto in più. Non è bello sicuramente, non è bello, non è una partita di calcio a porte chiuse, non è una partita di calcio. Beh, ma dire che non cambia niente vorrebbe dire disintegrare decenni di discorsi sul fattore casa. Non lo faremo noi oggi. Assolutissimamente, ci sono squadre che hanno costruito le proprie fortune proprio con il fattore che è casa, con le partite in casa, quindi è impensabile dire una cosa del genere. Però dicevo, per i giocatori, perché da giocatore non ci ho mai giocato a porte chiuse, da allenatore l'ho vissuto. Per i giocatori a un certo punto i giocatori devono pensare alla gara, non è che poi devi pensare a quello che devi fare, sei concentrato su quello che devi fare in campo. Sì, devi chiuderti le orecchie e andare avanti. Grazie Stefano. Esatto, grazie a voi, buon lavoro. Grazie Stefano Colantuono, Emilio Napoli. Pronto? Emilio, vai. Sì, buonasera, salve. Io volevo un attimo intervenire in merito alla questione Atalanta-Juve. Io mi rendo conto che dal punto di vista aziendale, perché ho anch'io una formazione aziendale, è un mondo più protetto, più chiuso, ci sono meno rischi senza il risultato, senza essere condizionati dal risultato. Però abbiamo sempre detto che il calcio è un esempio soprattutto per i nostri giovani. Allora, il fatto di dire ai giovani, guarda, purtroppo a certi livelli possono arrivare soltanto determinati professionisti, è come un po' dire, che ne so, a uno studente di buone speranze, che ha voglia, che ha capacità, soprattutto di dire, guarda, mi dispiace, se ti lauri all'università, che ne so, della Sapienza, piuttosto che a un'altra università, non voglio fare nome, tu il liceo di Google non lo puoi fare mai, perché ti devi laureare soltanto alla Bocconi o a Stanford. Cioè, mi sembra una limitazione che è un passo indietro rispetto a quella che è la tendenza un poco storica, diciamo, della nostra società. Anche se, ripeto Emilio, poi il dibattito è anche più ampio, e forse è anche normale che ci sia, così come 20 anni fa c'è stato quello se passare dalla Coppa dei Campioni alla Champions League, e anche allora c'erano dibattiti e resistenze. Enrico Cuneo, Enrico. Invece sono Eccoci. In disaccordo Ciao, buon pomeriggio. Con il buongiorno. Sono in disaccordo con l'altro ascoltatore, sì, per quello che ha detto. Secondo me Agnelli ha ragione al 100%, anzi, io forse gli imputo di non aver avuto coraggio fino in fondo, perché dovremmo passare a un sistema dove solo le squadre che fatturano più di 500 milioni dovrebbero giocare alla Champions. Vabbè, tu sei un provocatore, sì, Enrico. Ma basta anche con lo sport, per la definizione di sport. Penso alle Olimpiadi, sì, in semifinale dei 100 metri, facciamo passare in finale solo gli appartenenti alla federazione americana o a quella saudita o quella del Qatar. O chi presenta un 7-30 che ha più alti. Certo. Ma anche nel mondo del cinema, facciamo in modo che arrivino a vincere gli Oscar solo le produzioni che per cui vengono spese 500 milioni, perché i piccoli film danno fastidio. Cerchiamo di fare in modo che tutto il mondo appartenga soltanto a chi ha grandi fatturati. Enrico, tutti questi piccoli che danno fastidio, Enrico, togliamoli di mezzo. Enrico, dai, bravissimo, meraviglioso, ironico. Credo che sia ironico. Poi, no, in realtà, questo, però, perdonami, Pier, cioè, molta di questa realtà è già presente oggi, eh? Sì, vabbè, però negli Oscar, però sicuramente dire, nel mondo del calcio, basta guardare le qualificate agli ottavi di finale di questa Champions League. Sì, però voglio dire, appunto per questo, in questo momento c'è la Lazio in testa alla classifica, comunque se la giocherà fino in fondo, c'è l'Atalanta che per il secondo anno consecutivo può andare in Champions League, ha ottime possibilità, cioè c'è già un sistema sicuramente squilibrato perché i fatturati contano, ma chi riesce a massimizzare i risultati pur con dei fatturati più bassi ottiene grandi risultati ed è giusto che vada avanti. Detto questo, io lo so perché ho seguito tutto l'intervento, sono d'accordo con te che il discorso era più un brainstorming, una discussione aperta sugli scenari del calcio futuro, quindi credo che dal punto di vista della comunicazione quel passaggio lì fosse un passaggio tra virgolette pericoloso, e in effetti lo è stato, perché poi alla fine tutti parlano, sì, è quello che è finito sulle prime pagine, in qualche modo lo strumentalizzano pure, però ti ripeto, su quello secondo me Agnelli non ha ragione, cioè messa in quei termini assolutamente io sono contrario, brutalizzata così, però il concetto era sicuramente più complessivo. Allora Pier, ti saluto. Sì. Alla prossima, ci sentiamo domenica dalle 17 alle 19, vivremo un lunghissimo pre-partita di Juventus-Inter, parleremo anche a proposito di porte chiuse con una persona abituata a lavorare con gli atleti di altissimo livello, di che cosa significa dal punto di vista della motivazione e dell'impatto. Mi tengo invece Marco Bellinazzo, perché abbiamo tanti altri argomenti di cui parlare, a partire da Commisso, che ieri ha annunciato la rinuncia della Fiorentina a partecipare al bando per l'area della Mercafit, che significa che non sarà fast, ammesso che sia lo stadio della Fiorentina. 800 24 00 24, torniamo subito. Se io fossi Agnelli mi preoccuperei più del risultato con Lione che di come l'Atalanta sul solo anno sia riuscita forse ad andare più avanti della Juve, eh? I meriti sono quelli del campo e lo dico da juventino. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Vabbè, ieri l'ho tito su Carpi a Frosinone, oggi Agnelli sull'Atalanta, stessi discorsi, stessi interessi, fine dello sport popolare ridotto ad una farsa consumista. Vabbè, io credo che il paragone tra la famosa telefonata, intercettazione telefonica, registrazione tra l'altro abusiva di Lotito, e le parole di ieri di Agnelli in maniera trasparente davanti a una platea come quella del Financial Times sia quantomeno improvvido. Questa è la mia opinione. Allora, Commisso, Fiorentina, ieri lettera alla famiglia Viola: rinunciamo con dolore al partecipare al bando per l'area del Mercafir perché non abbiamo certezze su costi, tempi e sulla possibilità di fare lo stadio così come immaginavamo, tradotto il fast di Commisso. Commisso ha scoperto che siamo in Italia e che magari il centro sportivo nel comune adiacente, come ha fatto, si può realizzare in tempi brevi per lo stadio, è molto più complesso ed è un vero peccato, perché per esempio la Fiorentina, visto che stiamo parlando, no, di possibilità economiche e di un calcio diverso in futuro, la Fiorentina è un club che non arriva a 90 milioni di fatturato senza le plusvalenze, ha una piazza che invece meriterebbe un calcio diverso e che è stata abituata negli anni passati, in cui non c'era fair play finanziario, ad un calcio diverso, a campioni, a competere e a stare in Champions. Ebbene, capite bene, con 90 milioni di fatturato difficilmente, salvo miracoli, salvo storia, l'Atalanta ci potrà arrivare, mentre invece una pianificazione importante sullo stadio, la costruzione di un impianto più remunerativo, tra l'altro con un soggetto privato che ha i soldi per farlo e quindi non avrebbe chiesto nulla al comune, è un'opportunità che spero non sia definitivamente tramontata. Sicuramente al momento lo è per come se l'era immaginato Commisso. Cerchiamo di capire ora. Sì, lunedì Gio Barone, che è il suo braccio destro, qui da noi diceva, in un certo senso preannunciando che cosa sarebbe accaduto da lì a 72 ore, a domanda precisa ma esclude l'idea di poterlo fare fuori Firenze, risposta no, abbiamo ricevuto tante candidature, è chiaro che valuteremo qualsiasi possibilità. 72 ore dopo, di fatto, è arrivato il no definitivo alla Mercafir, che significa la prima opzione per restare nel territorio comunale di Firenze. Saluto Pier Bergonzi, Gazzetta dello Sport, ciao Pier. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, adesso ragioniamo sulle tante notizie dolorose arrivate oggi, quelle ufficiali, la cancellazione, o meglio il rinvio a data da destinarsi, della Tirreno-Adriatico, della Milano-Sanremo, leggevo adesso anche della Coppi Bartali qualche minuto fa, del Giro di Sicilia, poi insomma ieri abbiamo raccontato il rugby che non gioca Italia-Inghilterra Sei Nazioni, prima raccontavamo della Germania, che, o meglio di Norimberga, che non vuole la nazionale italiana in Germania il 31 marzo per giocare l'amichevole prevista in preparazione dell'Europeo. Domani su Sport Week fate un po' il conto su che cosa succede in generale al mondo dello sport. Riflessioni. Guarda, non sono gli effetti indesiderati di questo virus indesiderato che sta mettendo un po' a soqquadro le nostre vite, la nostra economia, la nostra scuola e quindi anche il nostro sport. Purtroppo non c'erano altre soluzioni. Questa mattina il CS Sport ha dovuto annullare e chiedere nuove date in calendario a tutte le classiche di primavera. Dopo le strade bianche è toccata la Tirreno, la Sanremo, al Giro di Sicilia, adesso anche la Coppa Bartali, come sta succedendo un po' a tutti gli sport. Purtroppo il ciclismo non è uno sport che si può giocare, disputare a porte chiuse e paga questo prezzo. Noi su Sport Week domani proponiamo un numero importantissimo per noi, perché quello delle figurine, ci saranno le figurine Panini imperdibili che escono solo con Sport Week, con la Gazzetta domani, e facciamo proprio il punto su questo. Perché? Perché mentre stavamo lavorando allo speciale Moto Mondiale è saltato anche il Moto Mondiale e quindi abbiamo pensato di fare proprio un po' lo sport al tempo del coronavirus e raccontare una serie di storie di chi riesce in qualche modo a fare sport anche in questo periodo. Perché io credo che la lezione che dobbiamo metterci in testa in queste settimane, purtroppo temo in questi mesi, è che non esistono tabù. Cioè, noi abbiamo ad esempio visto il presidente del CIO BAC dire che le Olimpiadi sono al riparo, non si toccano, la UEFA continua ufficialmente a dire che non c'è nessun problema per l'Europeo che inizia a Roma il 12 giugno. Ascoltiamo, recepiamo, ve le raccontiamo da cronisti, però non c'è più nessun tabù. Assolutamente. No, non c'è nessun tabù e nessuno può avere certezze di nessun genere. È chiaro che lo sport sta pagando un prezzo molto alto, in questo momento è quasi tutto fermo, è ripartito il calcio per fortuna a porte chiuse. Noi, il titolo del nostro Sport Week di domani è proprio "Ne usciremo", perché ne usciremo come ne usciremo da questo virus, ne va delle nostre vite, e lo sport, che spesso guida o è un punto di riferimento per la vita, lo sarà anche in questo caso. Cioè, quando ripartirà tutto, lo sport sarà forse il primo o la locomotiva a ripartire a tutti gli effetti. Io mi auguro presto, ma nessuna bacchetta magica per capire quando l'epidemia potrà essere arginata. Sì, è il motivo per cui, per esempio, io credo che una seria riflessione in ambito UEFA sull'Europeo 2020, almeno magari provando a capire in che termini si può magari rinviare di un anno, potrebbe risolvere molti problemi, consentendo ai campionati di prolungarsi fino alla fine di maggio, se no ad inizio giugno, e in questo modo, tra l'altro, con un impatto economico relativo, nel senso che, essendo un europeo itinerante, da un lato avrà meno impatto sulle 12 città che dovranno ospitare i match, quindi non è organizzato in un solo paese, e peraltro proprio perché itinerante in tempi di coronavirus è più pericoloso, quindi come dire, la risposta che ha dato proprio ieri la UEFA, l'agenzia Radio Cuore del Sole 24 Ore che l'ha interpellata, è stata quella di dire per il momento per il momento è tutto confermato, ma osserviamo con attenzione che non sia soltanto una forma e che ci sia poi insomma spazio per delle riflessioni che siano approfondite. Grazie Pier. Grazie a voi, a presto. Grazie Pier Bergonzi. A proposito di sport, economia, temi che si intrecciano, per questa mattina i rumors davano molto probabile il comunicato sulla cessione della Roma da Pallotta a Friedkin. La mattina è passata, il comunicato non è arrivato, ma insomma non significa che ci siano problemi. No, non credo, a parte che immagino questo tipo di comunicati a borse chiuse come prassi per le operazioni finanziarie di club o di società quotate. Sicuramente le vicissitudini che il calcio italiano e l'Italia sta affrontando in questi giorni non sono passate inosservate nel compratore, ma la trattativa è talmente avanzata che di fatto non ci saranno problemi. La due diligence è fondamentalmente chiusa. Di conseguenza parliamo veramente di ore di attesa in cui saranno apposte poi le firme sul preliminare. Ci sarà un ulteriore passaggio tecnico di un paio di mesi probabilmente, perché c'è la richiesta di un parere formale all'antitrust che necessita di 60 giorni, ma magari se arrivasse prima il parere, visto che è un parere pro forma, magari si riesce a chiudere prima e quindi il closing potrebbe arrivare rapidamente. C'è poi il passaggio in borsa per l'OPA, anche lì sì, potrebbe ci sono essere dei tempi tecnici, ma di fatto fatto il preliminare diciamo che potremmo considerare tutti gli effetti Friedkin come il nuovo presidente della S Roma. Ha possibilità di arrivare a un accordo con la UEFA, cosa che si è letta, per evitarsi problemi e fare per primo in Europa? Deve farlo e ha tutta l'accordo. La possibilità di farlo, Giovanni, perché la Roma, abbiamo detto, l'anno prossimo, cioè il 30 giugno 2020, quindi si presenta con un bilancio con meno 100, quindi non una situazione idilliaca, e allo stesso tempo però può mettere sul tavolo una nuova proprietà, quindi nuovi progetti, il progetto stadio che ci auguriamo da qui all'estate, perlomeno per sapere un via libera definitiva, a differenza di quel che sta accadendo a Firenze, e credo che la UEFA a quel punto non avrebbe nessun tipo di motivo per rifiutarlo, così come invece ne aveva avuti quando a presentarsi è stato il Milan di Ongyeonli. Sì, stiamo parlando di due realtà totalmente differenti, due situazioni totalmente differenti. Io saluto Marco Bellinazzo che rimando al sole. Eccomi, ciao, allora buon lavoro e buon proseguimento a tutti. Allora, invece ci fermiamo per il traffico, un minuto, torniamo e vi raccontiamo che cosa sta succedendo a Cagliari, Italia, Corea del Sud di tennis. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Sport è uno sport, è un'attività ludica. Capisco l'indotto economico, però si può fermare perché è uno sport. Mentre invece nei negozi c'è la gente che lavora, nei ristoranti anche, e poi nei supermercati si va a comprare il cibo che serve per mantenere vive le persone. Ci siamo capiti? Qualcosa si può fermare, ovviamente con dei danni, ma non è indispensabile, altre cose no. Vediamo se ce l'abbiamo fatta, questa volta. Ah, beh, mi fa impazzire da lunedì questo tema per cui lo sport non è un'attività economica, non c'è nessuno che ci lavora, non c'è nessuno che ci porta a casa uno stipendio, e non stiamo parlando chiaramente di Cristiano Ronaldo e i suoi 31 milioni di euro netti a stagione, ma parliamo delle altre decine di migliaia di persone che vivono direttamente o indirettamente attraverso lo sport. Lo sport, amico mio, mettitelo in testa, è un'attività economica, una delle prime 10 di questo paese, pesa per il 2% del PIL. Poi chiaramente si ferma prima lo sport e poi la sanità, per intenderci. Ma lo sport si ferma se si deve fermare, e si fa di tutto per non fermarlo, ma non perché è l'oppio dei popoli, ma perché è un'attività che ha la dignità di tante altre, a partire dai bar, i taxi, i trasporti. Si fa delle valutazioni di sistema di quello che si sta facendo in Italia, si farà e si sta facendo in tutta Europa. Paolo Bertolucci, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so cosa pensi tu. No, no, come non essere d'accordo con... io credo che in questo momento qua in molti lo dicono, ma poi in pochi secondo me seguono le direttive, nel senso di calma, tranquillità, pensiamo prima alla salute, sicuramente, però dobbiamo anche, come dire, renderci conto che dal punto di vista economico questo virus sarà una mazzata incredibile, soprattutto per l'Italia, perché l'Italia poi vive di turismo, vive di queste cose, per cui ne risentirà non poco nei prossimi mesi. Però, che dire, insomma, guardiamo avanti, pensiamo alla salute e a risolvere il prima possibile questo problema. Poi se dobbiamo farlo con lo stadio aperto, lo stadio chiuso, insomma, credo che sia veramente l'ultimo dei problemi. Io mi auguro solo che veramente non ci sia qualche scellerato che va fuori dallo stadio magari domenica per incitare i propri beniamini e quindi formare una curva esterna allo stadio, perché sì, credo che sarebbe il modo migliore per far fermare il campionato, perché chiaramente bisognerebbe trarre le conseguenze di questo comportamento secondo me non irresponsabile. Tutti hanno capito ancora come la cosa. Ah, glielo diciamo, non andate fuori dagli stadi, perché fate la figura degli idioti, vi mettete a rischio le persone che sono lì, anche quelle che sono le poche per lavorare, e soprattutto io credo che come cortocircuito provocate poi che si ferma tutto. Ti leggo dall'ANSA: Italia-Corea del Sud a Cagliari, Coppa Davis, porte chiuse ma non solo, ospiti e stampa prima di accomodarsi nelle tribune devono dichiarare se hanno la febbre, se negli ultimi 14 giorni sono stati fuori dall'Italia, il colpo d'occhio sugli spalti quasi spettrale, chi assiste al match si deve mettere con il vicino a due posti di distanza, e non basta, tra una fila e l'altra una deve rimanere senza spettatori. La delegazione coreana separata dal resto dei presenti, il più vicino a 5 posti di distanza è Nicola Pietrangeli, qualche stretta di mano tra i giocatori in campo, ma appena accennata, fredda e veloce, durante il match l'asciugamano e fai da te, vietata la consegna dal raccattapalle al giocatore, al massimo lo porge il capitano. L'Italia avanti 1-0 perché Fognini ci ha messo un'oretta a battere Duchy Lee. Paolo. No, dunque, premettiamo che questo non è un incontro di Coppa Davis, nel senso che c'è una tale differenza per cui ci vuole molta molta fede, molta passione per in ogni caso per seguire un match che non esiste, c'è troppa differenza tra le due squadre. Queste norme sono lette così, sembrano quasi folli, però evidentemente se l'hanno deciso vanno seguite. L'unica cosa positiva secondo me da tutto questo disastro a cui stiamo assistendo è che il giocatore con l'asciugamano deve arrangiarsi. Questo finalmente è una cosa positiva. Ho letto in tanti dire finalmente deve fare il raccattapalle, e il giocatore, se si suda la gocciolina eccetera, si arrangia, c'è il polsino, perché se no non fai lo sport, stai in casa con l'aria condizionata e così non sudi. Ma da quando è che è così, nel senso col raccattapalle che deve correre? Come tutte le cose, come dire, prende piede un pochino, magari l'ha fatto qualcuno una volta, poi lo fa un pochino più spesso, allora l'altro subito come dire si accoda, poi arriva l'altro, diventa una moda, un tic, perché è un tic nervoso, questo non c'entra niente, perché se tu stai lì 3 secondi ace dell'avversario, chiedi l'asciugamano. Tu quando giocavi chiedevi l'asciugamano, o eravamo ancora nei tempi in cui ognuno faceva per sé? Era da raccattapalle, ti mandava a quel paese. Beh, dipende, no, anche chi aveva davanti. Immagino che mandare a quel paese McEnroe non fosse la cosa più semplice. Ma non esisteva, cioè l'asciugamano lo prendevi, c'era la segatura, c'avevi qualcuno che aveva qualche problema in più, mi ricordo Orantes, qualcun altro che aveva praticamente un piccolo asciugamano inserito all'interno o all'esterno, diciamo, del pantaloncino. Questo, cioè, ognuno si arrangiava, c'è la segatura, la santa segatura è sempre esistita, e poi al limite se tu ti metti una fascia, cioè, ma qual è il problema? Cioè, nulla sarà più come prima dopo il coronavirus nel mondo del tennis. No, comunque adesso vedremo, perché poi dopo vediamo da aprile, quando inizierà il tour europeo di tennis, diciamo da Monte Carlo in poi, che cosa accadrà. Speriamo che nel frattempo, come dire, il grosso della marea sia passata e che magari piano piano si possa tornare alla normalità, altrimenti credo che anche da Monte Carlo, poi Madrid e poi Roma, eccetera, dovranno prendere delle decisioni. Sì, grazie Paolo. Grazie a voi. Grazie Paolo Bertolucci. Piero Milano. Piero. Sì, vai. Senti te? Sì. Sì, ciao, complimenti. Grazie. Un saluto. Due considerazioni velocissime. Una è sulle dichiarazioni di Agnelli. Trovo ingiusto come è stato affrontato il tema, nel senso che Agnelli ha... diciamo lanciato un tema un pochino più ampio che riguarda il futuro dello sport, del calcio, magari sbagliando, prendendo ad esempio l'Atalanta, va bene, però non mi sembra corretto. Insomma, il tema è importante, è giusto. A me piace moltissimo il modello americano, ma è questione di... Quello sono gusti. Abbiamo provato a spiegare che si andava oltre la battuta sull'Atalanta. Maurizio, Bergamo. Buongiorno a tutti. Eccoci. Gli ascoltatori. Vai, perché siamo io in chiusura. Premesso che essendo di Bergamo sono un tifoso milanista e poi secondo atalantino. Però io vorrei dire che con la borsa che ha il signor Agnelli arriva una squadra, l'Atalanta, che ha dato tantissimi giocatori alla Juventus, un po' di rispetto doveva averlo questo signore, questo ragazzetto qui che va a giro con i soldi di chi deve essere. Ragazzetto non direi, Maurizio, stiamo parlando comunque di un manager che ha, negli ultimi 10 anni qualcosina ha dimostrato guidando la Juventus, e poi insomma il curriculum di Agnelli potete serenamente leggerlo. Ma il ragionamento sull'Atalanta, e poi chiudiamo e vi salutiamo, e ne abbiamo parlato per mezz'ora, se è ristretto al semplice l'Atalanta è giusto, no, che stia in Champions, è chiaramente un autogol comunicativo. Abbiamo provato a spiegare che era inserito dentro un ragionamento più ampio e soprattutto un ragionamento che è iniziato qualche mese fa, finirà tra qualche mese e sicuramente alla fine produrrà un modello che sarà un compromesso tra mille esigenze, e noi cercheremo di raccontarvelo. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, domenica dalle 17 alle 19 in diretta per raccontare il prepartita di Juventus-Inter. Scusate, ma avete notizie di Genta? È veramente malato? Buongiorno a tutti, grazie per l'affetto. Non sono malato, non ho il coronavirus, sono serenamente in ferie per una settimana fino a domenica, quando con il mio amico Giovanni Capuano sarò a tutti convocati weekend dalle 17 alle 19. Ci sentiamo lì.